Come al solito vi do il benvenuto, vi saluto tutti quanti, grazie alle signore e signori che sono qui presenti questa sera per il nostro consueto appuntamento organizzato dalla Biblioteca Provinciale Claudia Augusta, che ha una sede in via Mendola 5, ma che per tutte le iniziative due volte alla settimana così invita le persone, il proprio pubblico, a raggiungerci presso questa bella sala del Centro Trevi o in alternativa al piano di sotto, perché sono spazi più idonei a quelli che noi chiamiamo gli incontri con l'autore o con le autrici. Ecco, noi organizziamo sempre sia lunedì che giovedì delle iniziative che vengono seguite e che servono sia per incontrare e farci conoscere presso un pubblico sempre più ampio, ma soprattutto per far conoscere la biblioteca, i suoi servizi, i libri che portiamo con noi. Anche questa sera abbiamo allestito una piccola vetrina tematica legata al tema della serata. Ringrazio i nostri ospiti, sono con noi questa sera Rita, Caterina, Maria Gelmi e Karl Georg Kröss, che sono autorevoli rappresentanti di un'associazione storico-culturale legata al territorio di Sarentino e che ci racconteranno la storia di questa valle, una valle interessante ma soprattutto bella e che in questi anni ha saputo anche svilupparsi, evolversi, perché ha un'identità anche direi imprenditoriale che ha piano piano rafforzato, era già esistente ma rafforzato, e sa farsi apprezzare quindi non solo sul nostro territorio ma anche al di fuori del nostro confine. Questa sera però saremo più vicini al tema della storia, quindi un tema che riguarda anche la città di Bolzano. I cittadini conoscono questa valle, la raggiungono per svariati motivi, soprattutto anche per molte gite, e la strada che sicuramente è un'arteria importante per raggiungere i vari luoghi e che anche recentemente ha conosciuto un cambiamento notevole e radicale. Io ringrazio i nostri ospiti perché ci hanno contattato ancora tempo fa e proposto questa iniziativa che abbiamo colto con grande piacere, perché tutto quello che riguarda il nostro territorio lo vogliamo conoscere direttamente noi e farlo conoscere ai nostri amici. Grazie ancora e buona serata. Vi ricordo solamente una cosa, che abbiamo qui le cartoline degli appuntamenti che ci saranno sia giovedì che le prossime settimane, se volete prendere visione. Ancora grazie. Allora, anch'io saluto cordialmente tutto il pubblico. Io parlerò in lingua italiana e il mio collega parlerà in lingua tedesca. Siamo tutti e due di Sarentino e abbiamo, diciamo, ricostruito la storia della strada fin dai primordi. Quindi abbiamo scoperto tante cose interessanti che forse anche noi all'inizio non sapevamo e non conoscevamo. Un cordiale benvenuto e buonasera da parte mia. Io penso che l'esperienza che abbiamo fatto in quest'estate a Sarentino con la nostra conferenza bilingue, io propongo di farla solo in italiano al fine di stringere un po' i tempi. Io credo che proprio la cosa importante sia quella di cambiare, e quindi la ricchezza del nostro territorio sono le due lingue e io propongo appunto di farla come l'abbiamo fatta. Va bene. Iniziamo, così sì, verso mezzanotte finiamo. Allora, questa è la nostra valle che voi conoscete benissimo, sia perché si passa l'estate per prendere un po' di fresco o per in agosto per i funghi. La nostra valle è Sarentino, è circondata da monti però non zoccolo di cavallo, also Hufeisen. Es gibt ja bekanntlich die Hufeisen-Tour, die nimmt ja im Bozen bei über den Rippen rauf und Benzaljoch runter, dann die Nesingshalten wieder zurück. Ne? Früher machte man die in einer Woche, jetzt macht man das, glaube ich, Va bene, i monti della Val Salentino hanno la forma di ferro di cavallo, come qui si vede, e c'è anche un percorso che si chiama il percorso a ferro di cavallo. Si può fare in 6 giorni e praticamente si inizia da Bolzano, si arriva a Pennes, sempre tenendo, diciamo, il sentiero in alta montagna, e poi si riscende e si ritorna al punto di partenza. Le montagne della Val Sarentino non sono molto alte, e questo ha permesso fin dai tempi antichi i collegamenti con altre valli, anche se non c'erano delle vere e proprie strade, c'erano soltanto dei sentieri, delle mulattiere che potevano essere percorse a piedi oppure con i cavalli o i muli. Queste erano le vie di contatto con le vallate vicine. Si parla sempre dell'isolamento della Val Sarentino. Effettivamente non erano molti quelli che attraversavano i monti, ma dei contatti ci sono stati fin da tempi antichi. Persiste ancora nel 1967, nelle vie d'Italia, la rivista del Touring Club Italiano, dove praticamente dedicato a 4 pagine alla Val Sarentino come valle ancora incontaminata. Le prime, forse riusciti a leggerli, praticamente fino al 35, che è praticamente l'anno della costruzione della strada moderna, praticamente Sarentino viveva ancora nel Medioevo, no? E come ha accennato Rita, praticamente l'insediamento di Sarentino non è venuto da sud attraverso la gola di Sarentino, ma attraverso, come già anticipato, le monti che non sono tanto alti. Il monte più alto a Sarentino è a 2600 all'incirca, non arriva a 3000. I passaggi per le valli vicine sono a nord, il classico Passo Pennes, verso Bressanone, Malga di Tramingia, da sempre una via di comunicazione con il Vescovado di Bressanone, perché praticamente la parte nord di Sarentino apparteneva fino al 1818 alla diocesi di Bressanone, e quello Sarentino e tutta la parte sud alla diocesi di Trento. Questo collegato, che il nord era più collegato attraverso questi passi non alti verso Bressanone, cioè Pennes, San Martino, Val d'Urna, praticamente, tra l'altro lo vediamo dalla nostra raccolta di cartoline, che tutti quelli che facevano la villeggiatura a Sarentino, a Val d'Urna, praticamente facevano le gite, o arrivavano da Bressanone, o praticamente arrivati a Val d'Urna, praticamente non andavano a Bolzano. Adesso parlo degli anni 1900, anche 1920, praticamente non usavano come noi la via attraverso la gola, ma facevano questi passi che già da tempo erano innanzitutto nel primo momento come la via di insediamento dei Baiuvari, e poi di comunicazione tra le valli, dentro la valle di Salentino. Si gioco dei prati e croce, praticamente dove sono gli stone o mandan, no? gli uomini di pietra, e dall'altra parte si arrivava verso Merano. Veramente nel 1864 ancora una guida turistica diceva, praticamente la stessa tempo di percorrenza da Bolzano via San Genese a Salentino era la stessa fino da Salentino fino a Merano, praticamente da 5 a 7 ore. Sì, il tempo di percorrenza era naturalmente molto lungo, però si arrivava. Qui praticamente vediamo l'accesso da sud, com'era praticamente medioevo e prima preistoria. La Gola era inaccessibile per le acque del Talvera e praticamente della caduta Massi. Allora si facevano varie deviazioni verso le altitudini. Verso l'altezza. Sul Renon passava la via imperiale e quindi da lì poi si scendeva nella Val Sarentino. Poi dalla torre di Druso era praticamente l'entrata a Bolzano, costituiva il punto di entrata a Bolzano passando per Meltina, San Genesio, cioè le vie alte, poi si scendeva lì dove oggi c'è la torre Druso. Praticamente si cercava di evitare la Gola però per arrivare a Bolzano. Questo spiega anche la percorrenza, il tempo di percorrenza di 5-7 ore. Oggi sono, ho visto quando sono arrivato in ritardo dall'autobus, sono comodamente 25 minuti. Adesso con la nuova strada si arriva a Bolzano comodamente in 25 minuti. Sicuramente si troverà qualcuno nei prossimi tempi su YouTube che ce la farà. 15. La Torre Druso. Cosa consiste o cosa c'entra con la strada di Salentino? Alcuni cenni sulla domanda. Allora, l'inaccessibilità da sud verso la valle, poi successivamente verso nord, praticamente faceva una valle chiusa e non transitabile. Ci sono alcuni elementi che dicono il contrario, che ci fanno pensare che già nel Medioevo la via attraverso la Val Sarentino, il transito, era ben noto e costituiva un'alternativa alla via imperiale verso il Renon. Comunque, naturalmente la strada veniva anche usata per avere delle entrate, cioè c'era all'entrata di Sarentino praticamente una dogana. Chi voleva passare doveva pagare un pedaggio. E questa dogana si trovava vicino al fiume Fago, all'entrata della valle. E in un privilegio del 1177, Papa Alessandro III concede ai frati benedettini di Biburg, di Ratisbona e Baviera, l'esenzione dai dazi doganali presso la località Severs, che è praticamente dove oggi troviamo la torre Druso o Forte Treuenstein fino al bacino del Talvera. Comunque lì venivano diciamo incassati i dazi. Praticamente i dazi si possono o si chiedono soltanto dove ovviamente è un transito, non si costruisce praticamente un casello autostradale, non c'è la strada. Allora c'è un indizio che si diceva già nel Medioevo, nel 1170, praticamente questa strada attraverso Sarentino sarà magari all'inizio salito verso San Genesio e poi sceso di nuovo e fatto il passo Pendes, che non è alto e poi abbastanza acceso. E poi un altro elemento che è un indizio che già nel Medioevo il transito, la via attraverso la Val Sarentina aveva la sua rilevanza, praticamente la costruzione del forte Troelsen, cioè la torre d'Uso, che non è stata fatta da D'Uso ma da Mainardo, praticamente di impedire un'invasione di truppe nemiche dal nord attraverso la Val Sarentina, che è sempre la più corta, no? Cioè, sì, è la strada più corta rispetto a quelle dei monti, no? Quindi da questi indizi si pensa che già qualcuno tentasse di percorrere fin dal Medioevo la strada nel fondovalle con grandi rischi per la caduta dei sassi e anche per le piene del Talvera, che sono state un problema fino al 1900. Ovviamente non si deve pensare a una strada ampia e percorribile con carri, ma piuttosto di una mulattiera che consentiva il transito di come detto, muli e cavalli e di altre cose, non sentivo. Però già nel Medioevo questo costituiva già un importante mezzo di un'importante infrastruttura. E probabilmente gli animali camminavano anche in parte ai margini del fiume mettendo i piedi nell'acqua lì dove c'erano delle anse, le acque erano più tranquille e più basse, quindi uomini e animali camminavano anche un po' nell'acqua. Però fino adesso questo è tutta fantascienza e la nostra un'ipotesi che noi facciamo adesso, qualcosa di più concreto e di accertato è la costruzione della prima strada carrabile attraverso la gola per Sarentino. Ed è stato l'imperatore Massimiliano I, colui che era proprietario del castello di Caccia, oggi museo di storia naturale, alla fine di via Bottai, è stato lui che nel 1494 ordina la costruzione di una strada attraverso la gola della Val Sarentino. E questo è il primo fatto storico che possiamo documentare. E naturalmente l'imperatore voleva anche una dogana e l'ha fatta presso Castelnovale, quindi all'entrata della gola c'era anche la dogana e chi voleva passare doveva pagare. L'imperatore sperava di incassare molti soldi, ma non è stato così, perché già allora c'erano molti contrabbandieri che evitavano la via ufficiale, la zona dove c'erano soldati e c'erano dei controlli, per cui le entrate che l'imperatore sperava di ricavare da questa costruzione della strada non ci sono state. Sì, praticamente dal censimento poi risultava che questa nuova strada non costituiva una gran fonte di entrate e praticamente non era in concorrenza con la strada imperiale alla fine. Poi sarà stata poi portata via, come vediamo, anche prima o poi dalle acque del Tarno. Adesso arriviamo già, lasciamo il Medio Evio e arriviamo già a un tempo più recente. C'è da dire che già agli inizi del 1700, nel 1721, il Talvera, dopo un temporale fortissimo, ha praticamente portato via parte della strada. E questo era sempre il problema della strada nel fondovalle. Il Talvera, che in periodi, diciamo, normali, sembra un fiume innocuo, in realtà era molto molto pericoloso. La conformazione della valle anche, soprattutto per la conformazione della valle. Cioè, certo, la valle è conformata in modo tale che c'è un restringimento, per cui le acque, quando ci sono forti temporali, si gonfiano e sono incontrollabili. Poi lungo la strada venivano spesso deposti anche tronchi d'albero e questi naturalmente venivano subito portati via dalle acque e sbattuti contro il fondo della strada, per cui la strada crollava. E praticamente dopo un temporale del 1721, praticamente la strada attraverso la gola non veniva più rifatta, in quanto talmente distrutta che si decideva di nuovo di fare la deviazione verso San Genesio, verso l'altipiano di Renone, poi per scendere a Ponticino. Questi inutili tentativi di ricostruire la strada hanno fatto sì che per 150 anni una strada diretta attraverso la Gola di Sarentino non esisteva. Non esistesse più, cioè non esisteva più la comunicazione attraverso la Gola. E il paese era praticamente isolato, a parte questi lunghi viaggi attraverso i monti. Però nel 1850 si decide di costruire una chiesa più grande. La chiesa era diventata troppo piccola e allora si decide di fare una chiesa nuova. La chiesa nuova aveva bisogno di tanto legname e precisamente di legname di noce. Infatti tutti i banchi della chiesa di Sarentino anche attualmente sono in noce, ma il noce sappiamo tutti che è un albero che non cresce in alta montagna e quindi c'era bisogno di trasportare il legname da fuori valle. E allora ecco che si decide di ricostruire la strada per poter affrontare la costruzione della nuova chiesa. Come avveniva, solo una piccola parentesi, come veniva ampliata la chiesa di Sarentino, qui abbiamo l'immagine, immagine del 1830, dove l'abside è ancora all'est, e praticamente dopo, con la costruzione e l'ampliamento della chiesa nel 1852, allora un anno prima della nuova strada, praticamente è stata girata. Adesso vediamo l'abside ad ovest, come oggi, e l'entrata a est. Quindi hanno proprio voltato la struttura della chiesa. Praticamente la fede o la costruzione di una chiesa più grande necessitava anche di una migliore infrastruttura, che avveniva, come detto, contemporaneamente con la ricostruzione della nuova chiesa per Sarentino nel 1852-53. praticamente viene chiamato l'ingegnere Franz Schweighofer a pianificare la nuova strada per Salentino. Questo ingegnere era già famoso perché aveva già costruito una strada attraverso la Val Pusteria con successo e quindi era una garanzia perché aveva già raccolto esperienza e infatti è quello che ha praticamente ricostruito la strada, però sempre lungo il Talvera in basso. E qui vedete da queste immagini come erano i ponti in legno e come venivano sostenuti tratti di strada sempre con pali in legno. Quindi erano costruzioni resistenti fino a un certo punto, perché immaginiamo poi il fiume nella sua furia con pali che trascina e che sbattono contro questi sostegni, ben presto li facevano cadere. Vediamo qui altre immagini della vecchia strada del 1853 52-53. Qui a qui Castelroncolo con un sottopassaggio. Ecco, e vi faccio notare una cosa, vedete che c'è, che è stata scavata la roccia per passare sotto la montagna di Castelroncolo e quella parte è caduta. Infatti tutta un'ala del castello con degli affreschi molto preziosi sono finiti in basso e non sono più stati ricostruiti. Quindi un'intera parte del castello, a causa di questa, di questo incavo, è caduta. La roccia quindi non ha resistito a questo intervento e così è caduta. Però vedete che già nel progetto dell'ingegnere c'era la roccia un po' scavata, non erano ancora vere e proprie gallerie, ma la roccia era stata scavata con notevole pericolo per caduta sassi. È un tratto della strada del 1853, c'è cioè la prima moderna, la percorrete ancora quando portate i vostri bambini alla ghiaccio, dall'annuale, praticamente è quel tratto che adesso purtroppo è sotto rete e non si nota tanto. E subito dopo il ponte in cemento armato di cui parleremo più avanti. È l'unico tratto che oggi è ancora che si può percorrere. Se notate sta roccia, forse sotto sta rete, sotto ammodernamenti e messa in sicurezza, vedete ancora l'ingegneristica rudimentale di quell'età. Qui anche la strada non era larga, infatti una corsia alta soltanto un metro qualcosa, un metro cinquanta praticamente, per far passare le gallerie, cioè, o quei cunicoli alti solo per far passare appena un carro. E praticamente con la nuova strada, la strada è stata finanziata, è la prima strada finanziata dal comune di Salentino con soldi da tasse, da mutui, e per far rientrare i soldi e pagare il mutuo praticamente si è fatto all'inizio una dogana con una costruzione di un albergo detto Sarnertoni. Era un personaggio tipico di quel tempo e lo vedete qui nell'immagine, e su di lui si raccontano tanti aneddoti. Una volta agli inizi del 1900 è arrivata anche una principessa della casa d'Austria con le sue amiche per fare una merenda, e naturalmente la signora, come vedete, e anche le sue amiche avevano abiti molto scollati. Hanno fatto la loro merenda a base di specche, pane duro, Schüttelbrot, no? E poi hanno pagato e volevano lasciare una lauta mancia a questo Sarner Toni. E lui ha ringraziato e ha detto: tenetevi i vostri soldi per comprarvi un po' più di stoffa, perché mi sembra che non ne abbiate abbastanza. Quindi le ha lasciate proprio di stucco con questa osservazione. Poi lui viveva lì da solo, non era sposato, e purtroppo c'erano stati anche dei ladri che avevano, diciamo, più di una volta tentato di rubargli lo specchio, anche le entrate che con la sua locanda era riuscito a mettere insieme. Ad ogni modo si dice che lui alla fine lo specchio lo portava nel letto sotto il cuscino e ci dormiva sopra, perché così, se fossero venuti, li avrebbe sentiti. E i soldi, si era fatto una specie di saccone interno nei pantaloni, e solo dopo la morte hanno trovato un sacco di monetine piccole che aveva appunto addosso, che si portava sempre addosso per paura dei ladri. Praticamente trovavano gli averi, non trovavano i soldi, e si sapeva che era un gran tirchio. Praticamente lì alla fine li trovavano 6.000 corone, monete da 20, con il peso che ho messo su in alto per farvi anche fare un po' di matematica. Voi pensate, vado alle conferenze di storia, meno male che non c'è mai matematica, ma poi c'è matematica. Comunque lì vedete, si vede che davanti ha qualcosa, i pantaloni sono un po' gonfi e quindi lì sotto erano nascoste le sue monete, 6 kg e 775 di monete, quindi si portava in giro un bel peso. Alla scoperta delle monete nei pantaloni, allora c'era anche qualche lettore di un giornale che rispondeva in una lettera, che adesso sa come mai sto Sarner Toni, quando serviva, era così lento. Due chili, hai voglia. La fine del Sarner Toni, forse voi qualcuno, i padri o come da figli siete passati, esisteva, la locanda esisteva ancora fino agli anni 65, dove un diluvio praticamente lo portava via, e è anche segnato la data della fine della vecchia strada della Gola. Praticamente fino all'anticipo, un po' fino agli anni 60, metà degli anni 60, i salentinesi passavano ancora sulla vecchia strada del 1853, ovvero a quella del 1901, in alternativa a quella più alta fatta negli anni 30 che vediamo. Quando praticamente c'era il diluvio spariva anche quella strada e si usava solo quella in alto. Con la nuova strada praticamente arriviamo anche a un periodo molto interessante che ci porta un po' vicino, un po' lontano da Sarentino, ci porta in Inghilterra. Praticamente il periodo della costruzione della nostra prima moderna strada era anche il periodo dove tutto il Tirolo faceva grande forza, grande promozione turistica all'estero, soprattutto in Inghilterra, dove dopo la rivoluzione industriale praticamente gli inglesi avevano i soldi come i russi oggi, o come quelli che, come, praticamente gli oligarchi, sì. Come gli oligarchi, praticamente, e Merano era considerato in quel periodo il balcone della monarchia. Tutti quelli che avevano un po' di soldi, si sono fatti i soldi, tutti gli inglesi arrivavano a Merano, russi, però soprattutto gli inglesi, per evitare il lungo umido inverno di in Inghilterra. Sì, e tra gli altri c'era anche una baronessa che amava trascorrere l'inverno a Merano. Questa baronessa ha sentito che in una certa vallata chiamata Valle di Sarentino, vicino a Pennes, c'era una miniera dove si estraeva la fluorite e piombo argentato anche. E allora si è interessata. Il proprietario di questa miniera era un contadino di Maglia Alta. E allora lei ha contattato questo contadino e gli ha chiesto se non avesse interesse a vendere la miniera. Lui stava a Maglia Alta, non a Sarentino, e lei invece aveva un figlio, William Basil Wilberforce, che come tanti nobili non aveva una vera e propria attività ancora, e quindi lei ha pensato che forse se gli comprava questa miniera poteva diventare un imprenditore e fare soldi con la vendita del minerale che si estraeva. E così lei ha fatto, ha comperato questa miniera e l'ha data a suo figlio, il quale è arrivato in Val Sarentino, era un signore molto alto che si notava e quindi ha fatto grande scalpore. E lui proveniva dall'Inghilterra, dove ormai le fabbriche avevano sviluppato anche diversi macchinari, diciamo, più avanzati rispetto a quelli che c'erano in Val Sarentino. Quindi lui ha portato anche nuovi macchinari per l'estrazione del minerale, li ha esposti alla fiera di Bolzano e ha suscitato grande scalpore. Poi ha fatto costruire una chiesetta che ancora oggi esiste vicino alla miniera. Questa casetta in legno l'ha fatta costruire questo barone inglese per i minatori. È dedicata alla Madonna, lui protestante ha fatto una chiesa per i minatori cattolici. Poi però gli affari sono andati male per la caduta del prezzo del minerale, e per, praticamente, come vediamo, dobbiamo sempre anche un po' anticipare le cose, con la distruzione totale della strada del 1850 dell'ingegner Schweighofer. Proprio quando funzionava tutto, lui praticamente doveva praticamente caricarsi praticamente non poteva esportare il minerale e poi non rendeva più. Allora nel 1892 è andato in bancarotta ed si è ritrasferito in Inghilterra, vicino alla Scozia. E sì, praticamente l'ultima cosa che si nota da lui è che ha inventato una molla per sedili di biciclette. Come sono inglesi, ma non potevano mai essere tranquilli. Ma la cosa più interessante è che lui aveva pensato di fare una ferrovia che dalla miniera arrivasse a Bolzano, e aveva già fatto costruire il progetto, aveva già fatto fare il progetto, e questo progetto nel 1889 è arrivato a Vienna, al Parlamento. Il Sudtirolo apparteneva all'Austria e quindi questi grandi progetti dovevano venire approvati dal Parlamento di Vienna, e il Parlamento gli approva il progetto. Ma nel frattempo la strada era stata distrutta e lui capisce che anche una ferrovia parallela alla strada non aveva, diciamo, possibilità di successo, perché era troppo pericolosa. La strada non esisteva più, e quindi anche nonostante il Parlamento di Vienna avesse approvato il progetto della ferrovia, lui ha capito che doveva accantonarlo. E quindi abbiamo nel libro tutto il progetto, tutta la descrizione, tutti i calcoli sulle spese, eccetera, ma purtroppo non se n'è fatto niente. Praticamente, secondo piano, praticamente la ferrovia avrebbe dovuto costare quasi 1 milione di fiorini, che sarebbero in valore attuale 20 milioni di euro. Una cosa che secondo me è rimasto dal sfortunato Wilberforce, uno che è praticamente la pianificazione del tracciato per la ferrovia di Salentina. Salentina serviva dopo per la ricostruzione della nuova strada nel 1901, che vediamo, e inoltre il suo parente, un cognato che è stato chiamato per la progettazione del tracciato, ingegnere anche lui, Richard Ruel Froude, voleva fare un impianto idroelettrico nella gola di Salentina per la illuminazione della città di Bolzano e l'Udicibile Gese. Quello sarà poi il vostro compito, la vostra competenza, indagare a che punto sti piani ingegneristiche del parente del Wilberforce servivano all'azienda elettrica, adesso Alberia di Bolzano, per costruire sia per il piano di una ipotetica diga nella gola di Salentino, e inoltre per la costruzione dell'impianto sulla TEL, perché il signor Froude era anche proprietario dei terreni della TEL. Secondo me i piani sono stati fatti dal parente di Wilberforce, per questo la ferrovia di Salento poteva portare anche luce a Bolzano. Sì, poi avevano fatto anche il progetto di una diga, che per fortuna poi non è stata realizzata, perché sappiamo che le dighe costituiscono un grave pericolo poi. Come ho detto, una catastrofe del 1891, alluvioni in tutta la zona del Tirolo, facevano sì tramontare il progetto della ferrovia, che la distruzione della strada. Qui un articolo dal giornale non austro-ungarico, quello che se posso adesso mettere un po' di politica, tanta prima delle elezioni, tanta discussione sui nomi italiani e tedeschi. Qui ho trovato un articolo del Corriere della Sera, anche a Milano non avevano tanta difficoltà o tanta, diciamo, problemi di pronunciare Santa al posto di Salentino, tra parentesi chiuso, nel senso che le discussioni sui nomi tedeschi italiani si doveva anche vedere un po' con una certa elasticità, se nel 1891 nessuno dava fastidio il nome di Sarental o di Sarentino, anche io penso che oggi possiamo essere anche un po' flessibili, chi tedesco, chiuso parentesi. Questo è un articolo del Corriere del 1891, ho trovato anche articoli in America dove viene descritto la tragedia nella Val Sarentino, dove a Bolzano arrivano cadaveri sia di uomini che di animali, e sto diluvio faceva sì che tutta la strada da mezza via fino a Ponticino, fino a Castelroncolo spariva. E qui vedete le onde della Talfer sono tuttora così melmose da apparire tinte in cupo color rossastro. Presso il ponte a Bolzano si trovò nel letto del torrente un cavallo morto attaccato ad un carro sfracellato e due cadaveri umani. Anche l'Isaac si gonfiò e quindi insomma c'erano disastri un po' in tutta la zona, non solo a Sarentino. Aggravare la situazione o la distruzione della strada, come ha accennato la Rita, era anche la talvera veniva usata per il trasporto di legname da Sarentino a Bolzano, che veniva usato sia per riscaldamento sia per ricostruzione. Adesso i tronchi praticamente spaccavano con la forza delle api, spaccavano via o trascinavano via tutta la strada. Allora cosa fare senza strada? Si pensa di nuovo di ritornare sugli altipiani che si conoscevano da San Genesio o Renon, però praticamente con un intervento presso la corte imperiale a Vienna si riusciva ad ottenere un finanziamento per la ricostruzione di nuovo della strada nella gola e di non dover fare di nuovo il lungo percorso per gli altipiani. Sì, la nuova strada finanziata, cioè Monarchia, Contea del Tirolo e Comune di Sarentino, Bolzano e Vanga, avveniva nel 1894, due anni, si arrivava a mezza via, è una cosa da non tralasciare, l'inaugurazione del 30 agosto facevano gli operai arrivati del Welsh Tirol dal Trentino, cioè lo devo dire perché anche mio nonno è arrivato con la strada da Serana. Praticamente i primi anni gli operai quasi tutti dal Trentino per causa della povertà che esistevano là, con la costruzione delle strade gli operai si facevano poteva mantenere le famiglie. Subito all'inizio una tragedia che c'è un estratto che ci ha mandato il parroco di Vanga, due morti schiacciati dai sassi, Vicentin Anton, si nota Anton, non Antonio, di Tesaro e Vanzo Giuseppe di Cavalese. Praticamente la strada quella la facevano i trentini, per correttezza si deve dire, e facevano anche gli ingegnosi autori della nuova strada di Sarental, Baracchieri di Magna Ghes porgono congratulazioni più vive. Allora il primo tratto li hanno inaugurati i trentini, la nostra strada, poi la seconda. La seconda inaugurazione nel 1901 e qui si vedono le autorità, si vede il locale previsto poi per il pranzo e il vescovo, arcivescovo di Trento, perché Sarentino faceva parte della diocesi di Trento, mentre la parte nord della Vallata, come abbiamo detto prima, faceva parte del vescovato di Bressanone, e questo era il locale dove si sono tenuti poi i festeggiamenti, il pranzo. Che oggi è scuola? È la scuola elementare, oggi è la scuola elementare, allora era un albergo. Sì, praticamente qui contiamo col Veneto, questo è il governatore del Tirolo, il conte Merbelt, che veniva scambiato in letteratura da tanto tempo come imperatore. L'imperatore non si trovava a Sarentino in questo periodo, ma a Salisburgo per inaugurare la statua della sua moglie Sissi, morta prima. Però diciamo, vabbè, non avevamo l'imperatore, purtroppo abbiamo tolto anche questo ai nostri compaesani. Qui alcuni tratti di strada moderna che poi sono diventati anche motivi di fotografici e luoghi di escursioni turistiche da parte di gente anche fuori da Bolzano. Praticamente si passava per questa selvaggia e romantica gola di Sarentina, adesso meno pericolosa. Qui notiamo a sinistra ancora il cunicolo fatto dall'ingegnere Schweighofer nel 1853 e adesso quella nuova. Siamo davanti al Monte San Giovanni, qui Castelnovale, in alto dietro la strada. La nuova strada porta incentiva anche lì l'economia e il turismo nella valle. E non solo arrivano i turisti, ma anche alcuni artisti si trovano nella valle in cerca di modelli. E come Albin e Carlins ne ha trovato uno che una volta che... Sì, lui non riusciva a trovare nessuno, alla fine si è dovuto accontentare di un beone trovato in una bettola, e questo beone è diventato poi il modello per il suo Cristo. E praticamente è arrivato in piena estate, quando i contadini dovevano fare i lavori dei campi e si interessavano di pittori famosi o meno, tranne uno che aveva la fortuna del perdigiorno, stava al bar e adesso lo vediamo. Sì, più di 100 anni dopo, i dipinti in tutto il mondo. Vedi, ogni tanto andai al bar, quando la moglie mi dice: dove sei stato? Sono stato al bar perché mi hanno voluto come modello. Sì. E anche le donne di Sant'Io coglievano l'occasione per girare il mondo, vediamoli. Sono arrivate perfino in America. E li troviamo ancora a Londra, qui molto originale la pubblicità 10 minutes in Tirol, no? Praticamente cantavano per 10 minuti e quelli inglesi erano di bellezze, sì, i gusti cambiano forse, o meglio le miss che abbiamo oggi. Comunque coraggio le donne che approfittavano anche della nuova strada. Solo chi si interessa di manifesti, questo è un manifesto del circo, dal famoso Alfred Freeland, praticamente non un qualsiasi che faceva manifesti, ma uno abbastanza rinomato. Arriva la guerra, qui soltanto alcuni nomi. I caduti si trovano in internet e si arriva dopo, il primo dopo guerra. Voi se andate come detto a portare a pattinaggio d'estate il vostro cane, avete visto un ponte solitario in cemento armato. Questo praticamente è il ponte che sotto la cascata Finghella, che collegava il ponte più importante, che collegava una parte della strada del 1850 e ancora più importante quella del 1900, una ancora in legno. Quella del 23 però, siccome durante la guerra non si avevano i soldi per la manutenzione, c'era il pericolo che crollasse. Sì, i ponti dopo la guerra erano ridotti, come vedete qui a destra, quindi erano veramente disastrati e pericolosi. E qui nel 2023 la prima volta si utilizza un nuovo materiale di costruzione, cemento armato, più robusto al posto di legno, immagine unica che abbiamo potuto raccogliere, che vedono i lavori di della costruzione. Qui abbiamo già il ponte in cemento armato finito, se si confronta com'è oggi, praticamente ancora intatto. Allora, quello voi lo sapete, voi passate, magari portate qualche osso, sapete cosa parla, invece questo è del 1923, fatto dai salentinesi, che poi per anni e anni dopo rivedeva il locale regime fascista come opera fascista, che non era. Ancora stile austro-ungarico, senza aquile arrabbiate, che vediamo, senza fasci, senza asce, senza solo un santo che lo vediamo più avanti, il santo Nepomuceno. Vabbè, era anche più economico delle aquile. Un po' di giallo? Sì, nella gola sono avvenuti anche alcuni fatti di sangue. Nel 1924, lungo la strada, in una scarpata, viene trovato il corpo di una venditrice ambulante, Monica Württemberger, che vendeva la sua merce anche al di fuori della valle. La donna presentava una revolverata in testa e poco dopo il ricovero è morta all'ospedale. Poi c'è stato un omicidio e questo omicidio era stato perpetrato da due giovani e sono poi stati trovati presi a Innsbruck e hanno passato gran parte della loro vita dietro le sbarre. Praticamente uno era boemo e l'altro invece era di Racine, ma si erano uniti per delinquere, ecco. Praticamente riuscivano in un arco di 5 giorni, arrivati da Innsbruck, dove si sono incontrati, poi arrivati a Bolzano, saliti verso Merano, Tirolo, paese, poi ritornato di nuovo a Bolzano, entrato nella gola, poi di nuovo fuggiti oltre Brenno, sono riusciti a compiere due omicidi e due tentati omicidi con un consistente numero di furti e di scasso. E condanne poi 15 anni di carcere e 16 anni l'altro. Si nota l'età giovane dei due. Prima di sparare dicevano sempre soldi o sempre. Spararono. Poi un episodio un po' noto, non tanto noto, non tanto piacevole, gli opportunisti, come diceva il giornalista, come si vede il giornalista dell'Alto Adige, fascisti per opportunismo, sì. Le elezioni, si nota. Nel 24 si nota che molti hanno votato per il partito fascista perché era stata loro promessa una nuova strada e quindi questa promessa li aveva molto allettati e si vede il numero di... quasi pari tedeschi e fascisti. Se no, si deve notare per l'onore dei salentinesi che sono riusciti a votare solo metà della gente, cioè hanno fatto solo una serie a Salentino, così tutti dentro valle dovevano venire a Salentino e non uscivano. Qui il libro che presentiamo, che però abbiamo venduto, noi a Salentino ogni tanto le cose facciamo un po' diverse, che presentiamo i libri quando sono già venduti. Questa è la prima parte e ne seguono ancora due. Come siete messi? Magari facciamo molto veloce, facciamo veloci e facciamo forse quella che è più meno conosciuta, forse più interessante, ancora la seconda, che poi la terza più moderna con i nuovi tunnel più per ingegneri, magari se c'è un ingegnere mando i... le gallerie che c'erano prima. Sì, sì, adesso arriviamo a quelle che conoscete voi. Anche là una storia molto interessante. Questo, ci fermiamo più su questo, che dal 35 fino al 45, poi le altre magari faccio avere la biblioteca, così è più per... dai, facciamo! Forza, dai, magari qualche stretching. Rita, sì? Com'è? Sì, dai. Va bene. Ma volete fare una piccola pausa? Come no. Allora, nell'epoca fascista c'è il progetto per una nuova strada a metà costa, quella che conosciamo fino a poco tempo fa. Era una strada che aveva la larghezza per il passaggio di due camion. In realtà, anche se i fascisti avevano fatto pensare che avrebbero costruito la strada per gli abitanti della valle, in realtà era una strada militare che doveva servire per proteggere l'Alto Adige da un'eventuale invasione da nord, e quindi l'avevano costruita così larga che potessero passare due camion militari nei due sensi. Praticamente come detto, l'intento militare di strategia veniva anche dall'invasione nazista in Austria, che praticamente Mussolini teneva un'inversione da parte dei nazisti attraverso il Brenner. Allora si faceva di tutto per costruire tante strade di armamento verso i confini, soprattutto verso il confine del Brenner. È la strada di Sarrentino, come detto, come conosciamo, la più diretta e la più corta, veniva fatta innanzitutto, e non si diceva mai apertamente, ma per il trasporto di truppe al Brennero, al confine, per impedire un'invasione. Una strada per il turismo, per la guerra o per il bestiame, praticamente in tutte le riviste o la maggior parte delle riviste e giornali dell'epoca si trova soltanto l'indole turistica della strada è lo scopo di incentivare l'economia della Val di Sarrentino. Come detto, soprattutto anche dopo l'assassino del cancelliere alleato austriaco Adolfus, alleato di Mussolini, praticamente a luce premeva di mettere in sicurezza il confine con strade, con bunker, con quello che facciamo. Qui abbiamo una storia interessante del direttore dei lavori, ingegner Stancari. Per caso abbiamo trovato i due album fotografici della costruzione della strada del 35 attraverso la gola, sono all'incirca, se non mi sbaglio, 90 immagini molto belle del cantiere fatto dall'ingegnere Stancari, che lo vediamo quello un po' a parte con i scarponi, col cappotto più aperto a sinistra, ragazzi, perché ho sempre difficoltà. Sì, è lui che ha progettato la strada costruita nell'epoca fascista, ma lui non faceva parte del partito fascista, e dopo la fine dei lavori lo hanno voluto costringere e lui si è rifiutato di iscriversi al partito, e allora per punizione è stato trasferito in Africa ed è stato lì fino alla fine della guerra, e poi è ritornato, e comunque è un esempio di coerenza e di non servilismo, ecco. Qui vediamo le immagini del ponte presso Castelroncolo, che due settimane fa praticamente è stato risanato, qui la costruzione, qui all'inizio della gola con i martelli pneumatici, erano rari, mi sa che erano in tutto 5, le gallerie fatte ancora col martello, con le carrozze su binari. Vediamo anche altre immagini come queste, questi vagoni, vagoncini, ponti. Qui siamo vicino a Villa, la nuova strada. Sì, gran parte del lavoro è stato fatto ancora a mano, quindi possiamo immaginare le fatiche che ha comportato la costruzione delle gallerie. Poi i ponti molto, anche c'è la strada anche esteticamente fatta molto, molto, molto bella. Praticamente i sarentinesi gli si davano in regalo un'autostrada. Qui il ponte a Rio Bianco, che conosciamo ancora, chi magari si volesse fermare, restaurato molto male, non lo diciamo, se no arriva uno dell'AIMA appunto e di nuovo fa un'interpellazione. C'è uno stemma fascista ancora là, che con epoca fascista, 14, non lo dite, se no magari a spese comunali dobbiamo toglierlo o non farlo, non lo diciamo, voi magari se avete interesse vi fermate, vabbè, la moglie va a prendere il caffè, il marito va di giù e deve fare una foto dello stemma ancora intatta, nessuno lo vede, noi lo sappiamo, qui non lo diciamo, di nuovo spese, polemiche. Comunque c'è, dove dice epoca, cos'è? No, epoca fascista, anno 14 che è? Dell'era. Ah, era, no, dell'era era, fascista. Epoca, la data dell'era fascista. Cos'è il 14 fascista. Poi? 36. 36, però da stare attenti, calcolano sempre dal 28 ottobre, no? Se prima è tutto un 6 novembre, sì, sì. Si sbaglia sempre di un anno. Qui alcuni dati dell'opera, qui abbiamo i dati sono riferiti a due tronchi che faceva sto ingegnere Stancari, praticamente quello del Castelronco fino al Ponte Vigna e a Sarentino fino al Rio Bianco. Si nota il numero di operai complessivi, 1000 praticamente in tutta la valle, in vari cantieri lavoravano 1000 operai. E questi sarentinesi quanti? Zero. Tedeschi zero, gran parte, uno di Serrada, mio nonno, così l'abbiamo nominato, ormai uno fa la storia di Sarentino. Poi molti di Brescia, Lunelli, si trovano ancora Lunelli a Sarentino, che poi alcuni sono rimasti. Zancanella è arrivato con la strada, che adesso se volete il pane buono beccherai Zancanella. Il segretario comunale. Segretario comunale forse. Sì, alcuni nomi si scoprono, o sono dei carabinieri, o dell'Enel, o della Ste, o qualcuno è arrivato anche con la miniera, no? Sì, sì. Gelmi. No, è stato un po'. Sì, mio padre è arrivato come contabile della miniera dopo la prima guerra. Siccome la ditta a cui apparteneva la miniera era austriaca, persa la guerra, ha diciamo lasciato la miniera alla Montecatini e mio papà è arrivato in quel momento. Anche notiamo automezzi, 9, praticamente erano solo 9 camion, vagoncini 103, binari, 7 km di binari per trasportare il materiale, cavalli, carri a cavalli e poi cavalli. È interessante, notiamo la data di inizio dei lavori, luglio 1935 si iniziava dal Castello Occolo per fare sta nuova strada. Perché? E qui abbiamo il progetto della strada attraverso la gola, datata il 12 agosto, praticamente 2 settimane dopo si approvava il progetto e si arrivava prima. Si vede, secondo me, si vede anche quanta premura avevano di fare questa strada, che sono riusciti nell'arco di quello più difficile, nell'arco di un 8-9 mesi, se si calcola le nuove gallerie, avevamo aspettato 10 anni adesso. Praticamente dove c'è necessità sì, dove i soldi, a far guerra i soldi si trovano. E per il terremoto non si trova? No, non esiste. Qui abbiamo a destra, sì, a destra è la carta del magistrato alle acque del 34, dove praticamente si diceva, premetto, si iniziava nel 32-33, si iniziava con tanta forza, poi nel 34 con tanta premura, tanta forza di fare questa nuova strada militare per Sarantino. Va bene, si iniziava a fare anche una gola, di non fare tutto il tracciato nuovo, ma di seguire quella vecchia, più economica, più rapida. Cosa succede quando si iniziava, quando si facevano già due tunnel che adesso, quando a Monte San Giovanni voi passate, vedete ancora due gallerie ancora intatte, sono del 30, 33-34, praticamente arrivava il 34, arrivava la relazione del magistrato alle acque che si dice: alt, noi per noi di protezione per infrastrutture per protezione civile, cioè contro le alluvioni nella pianura padana, dobbiamo sbarrare alcuni affluenti dell'Adige. Allora si diceva, si prendeva una mappa, si dice chi sbarriamo. Allora Valpassia si vede uno, altri, come detto, l'altro era il Talgar a Bolzano, che praticamente è un affluente all'Isarco, poi all'Adige. Allora si diceva, in caso di alluvioni, noi abbiamo una diga che regola la talva. Praticamente quando c'è tanta acqua noi chiudiamo la diga, e così la pianura padana, in pianura padana arrivano meno acque. Poi lo mostro così, questo si nota quando muori, si va, c'è ancora quella galleria che sono riusciti a fare quando praticamente erano negli anni 60 le alluvioni, si apriva quella galleria e si faceva entrare tutte le acque dell'Adige e il lago di Garda che si alzava di alcuni centimetri la prima volta. Allora, fatto questo, allora diceva il magistrato: stop, voi dovete fare una diga alle porte di Bolzano. Allora, progetto nuovo, lavori, alt, dietro, fronte. E praticamente questo sbarramento doveva avvenire, se avete ricordate ancora la vecchia strada che fa all'inizio una sterzata fino a un certo punto dove la rovina di Fingello, dove c'è sto castello, praticamente arrivava il tratto pianeggiante fino a tutte le gallerie si fanno praticamente in pianura, e là questo tratto pianeggiante segnava l'altezza della diga, praticamente, cioè si calcola un 10 metri sotto quella parte pianeggiante dovevano essere già le acque del Talgar della diga. Questo però non si riusciva, e poi si voleva fare bene non solo di regolare il Talgar, ma anche per fare il terreno. Ah, qui ce l'abbiamo, se vi ricordate praticamente il castello qui doveva sorgere il muro, una pianura qui in un altro diga in costruzione che sulle stesse indole di quella di Sarrentino. Qui adesso è già una storia, se vi ricordate la vecchia strada, a quel piatto che praticamente tutta questa parte doveva essere sotto acqua. Come mai non si riusciva a fare non si faceva sta diga? Siamo nel 35, periodo di guerra, guerra dell'Abissinia, poi seconda guerra mondiale, poi senza altri dubbi sull'utilità, sulla sicurezza, anche davanti, come ha detto la Rita, anche davanti alle porte di Bolzano, avere un enorme muro di sbarramento, pericolo di crollo, di alluvioni, non si faceva. E la diga come ultima, il piano della diga come ultima finiva nel 1949, quando la STE costruiva la centrale idroelettrica Sant'Antonio, che deviava praticamente quasi tutte le acque del Talgar attraverso la montagna verso Vanga, per poi farla uscire vicino a Castelrocco, che voi sapete. Allora, dove non c'è più acqua non serve fare una diga, no? Ovviamente, qui vedete il traccio. Bagni di Cerga, no? Vicino a Ponte Cilo, entra di nuovo nella montagna, fa Vanga e poi ritorna, sale piano. Nel 38 poi la strada è finita, tutti contenti, qui abbiamo alcune immagini del Touring Club Via d'Italia, favore di opere di alcune immagini a Salentino prima della strada, dove oggi c'è la Torre Kranzl, che speriamo che diventasse, che diventi sede della nostra associazione. Non facciamo pubblicità così, pure va il sindaco, dice dai, questi campolasta senza e con strada, con anche i collegamenti Brescia Monaco attraverso la Val Salentino della SAT. Qui i piloni fascisti, che uno mi sa che si trova ancora sul palade, uno è ancora retto a Salentino. Abbiamo fatto un'altra cosa, non so se l'hanno portato qua, però fermatevi un attimo su al rifugio, anche se non volete entrare, fermatevi prima e vedete il para. E come mai questi sono concavi? Si dice concavi, no? concavi, perché sono praticamente i piloni che li hanno detto, vabbè, li usiamo adesso per altre cose. Qui abbiamo il primo censimento: quante strade, quante macchine, quanti animali passavano, cantavano tutti, direi ci sono un ammucchiamento di animali di numero 3, mi sa, allora 100 macchine in 3 mesi, in 3 mesi 117 macchine, 28 biciclette. Poi il camionista, si conosce uno della valle che praticamente ogni giorno faceva il suo giro, le macchine, il camion era solo lui. E qui ancora le capre. Qui ho fatto un calcolo adesso e sono arrivato, ogni tanto do i numeri, si vede. E ho calcolato che tutto nell'arco, cioè prendendo questa statistica dei 3 mesi e calcolando sull'anno, che praticamente nell'anno, nel 38-39, nell'arco di un anno, le macchine che circolavano corrispondono a quelli che corrispondono oggi dalle 5 alle 10 in una mattinata. Allora non era per lo sviluppo di Salentino, ma evidentemente dopo il 39 la gente che vive ancora racconta delle colonne di truppe di materiale bello. Incidente tragico nel 40, questo lo potete vedere qui, forse questa è l'ultima, l'operazione Forelle o Trotta, cioè quelli della Trotta, i nazisti sempre dovevano inventarsi un nome misterioso. Si fa più effetto, è come si chiamava Indiana Jones, anche là diceva il segreto, anche quelli già Forelle praticamente in Trotta. Era stata praticamente bombardata una fabbrica di munizioni a Bologna che si chiamava Trotta, e i nazisti hanno pensato bene di spostare la fabbrica nelle gallerie di Salentino, e lì metà della strada serviva ancora per il passaggio dei camion, nell'altra metà avevano portato i macchinari e volevano poi che i prigionieri del campo di Via Resia andassero a lavorare giornalmente lì per produrre munizioni, perché ormai le fabbriche a cielo aperto erano state bombardate. Purtroppo non sono arrivati a fare questo, perché nel frattempo, grazie al cielo, la guerra è finita. E così gli inglesi, quando sono venuti, hanno trovato con loro grande sorpresa sotto le gallerie dei macchinari nuovissimi per la produzione di armi, che non erano state per fortuna utilizzate, però avevano utilizzato metà delle gallerie. L'assurdità anche di quel periodo, adesso siamo un po' sorpresi, però forse quando vivevi in quel tempo non ti accorgevi nemmeno. Forse qualcuno sa dov'è la località Costozza. Costozza. Anche io mi sbagliavo sempre. È in Valdagno. In Valdagno, mesi prima, in estate del 44, a Costozza e Valdagno facevano incaricare l'organizzazione TOT della Germania, incaricava dite vicentine per scavare caverne per immagazzinare alimentari e munizioni per il ridotto alpino, però si voleva combattere fino alla fine. Arrivati in Valdagno, vicino a Valdagno, gli americani, allora si diceva no, non andate via, no, anzi li hanno cambiato, esistono contratti con quanto si dovevano, no, per gli ultimi mesi praticamente si tiravano tutte ste dite con gli operai vicentini nella Val Sarentina per fare adeguamenti a delle gallerie a fabbriche. Si vede che sto Arbeiter Ausweis, che è un tesseramento dell'operaio, finché si identificasse, doveva partire per la milizia praticamente. Qui si vede in basso, è stato timbrato sopra Abschnitzarte, praticamente quelli si arrivavano, si prendevano i vicentini, mettevano su un timbro, adesso tu lavori per le gallerie di Sarentino per fare le fabbrichette. Ancora da cercare dove è stato il lager satellite che facevano, forse è stata sta baracca vicino al Castel Novale dove praticamente portavano i prigionieri di Resio quando praticamente era finita, ora più dentro nella valle, questo non sa. Finito la guerra, come ha detto la Rita, arrivano per primi gli inglesi e trovano tutti i macchinari nuovi. Ciao. Adesso è finita. Allora faccio ancora l'ultima, poi vi lascio. Poi volete ancora fare la terza parte? No. E faccio solo l'ultima slide perché ci ho messo tanto a farla. Così intanto del 32, le donne sì, oggi, questa ve la devo far vedere perché ci ha messo una cosa. Questo se avete dei. Allora, questa è un'immagine del 32, le donne che le donano dal mercato. È all'entrata di Sarentino. Io pensavo fosse qualcuno pensato questo. Che poi è diventata anche realtà. non siamo gli unici noi che nella nostra generazione che è sempre la giovane, che magari i giovani saranno più contenti.